Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Minuti 19:30 in questo esatto istante, gentili ascoltatori, buona serata, ben ritrovati a Nessun luogo lontano. La squadra, Nadia Zammitti con me in redazione, Paolo Corleone a dare musica e ritmo a questa puntata, e in questa puntata vi ricordo come sempre le coordinate sono la mail nessunluogo@radio24.it, gli sms 349-238-6666, il profilo Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24 e Twitter Nessun Luogo 24. A questi indirizzi potete scrivere, potete porre domande, commentare anche la puntata di oggi, e oggi io vi porto in Ucraina. Alza il pallone, quasi mette fuori tempo Montero, Cavi Moreno bene, Shevchenko nello spazio, va via Shevchenko, accelera, salta tutti Shevchenko, cerca la conclusione! Non ho mai utilizzato le mie doti sportive fuori dal ring di box, e spero di non doverlo fare mai, ma per le questioni importanti, se l'interesse del mio paese sarà messo a rischio, io lotterò per la verità utilizzando ogni metodo, anche i pugni. E stasera parliamo di Ucraina perché domani si vota per il Parlamento. Avete sentito le voci, anzi la voce, la prima era quella di un commento, un gol di Shevchenko, e poi invece la voce a muso duro di Viktor Klitschko, che è un pugile. Quindi un goleador, un ex goleador e un peso massimo che scendono nell'agone politico ucraino. Se volete, queste sono le note più colorite, che hanno forse più scaldato una campagna elettorale, dicevo, per le parlamentari di domani, che è stata tendenzialmente sottotono. Però è un test importantissimo per il partito delle regioni del presidente Viktor Yanukovych, che oggi l'Economist definiva il dittatore di un paese pluralistico. Appuntamento elettorale, dicevo, molto importante in un paese che un altro autorevole pubblicazione, il Foreign Policy, tratteggiava così la situazione del paese. Il titolo era Il malessere in Ucraina, per descrivere una situazione in cui il presidente Yanukovych si è preso tutti i poteri via via in questi anni nelle mani, ha in qualche modo tagliato le gambe all'opposizione. Lo sapete, Yulia Tymoshenko è in carcere per abuso di potere, per quella famosa questione del gas comprato a prezzi sconvenienti per l'Ucraina quando lei guidava il governo, ma un processo che è stato definito da tutti i commentatori dal sapore fortemente politico. Negli ultimi due anni l'apparato Yanukovych si è ingrandito, il presidente è riuscito a creare un'elite economica, politica, lui favorevole, che è alla testa del paese. Perché sono così importanti queste elezioni parlamentari e che ruolo gioca l'Ucraina negli equilibri dell'area? L'Ucraina ottiene l'indipendenza nel 1991, in seguito alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Da allora il paese si è sempre dibattuto tra i tentativi di avvicinamento all'Europa occidentale e quelli di riconciliazione con la Russia, dalla quale provengono la quasi totalità delle forniture energetiche. Gli anni immediatamente successivi all'indipendenza in Ucraina sono caratterizzati da un crescente scontento popolare, motivato dalla scarsa libertà di espressione e dalla cronica manipolazione degli organi mediatici e politici da parte della vecchia dirigenza del Partito Comunista al governo. Nel novembre del 2004, il tentativo delle autorità governative di manipolare le elezioni presidenziali in favore di Viktor Yanukovych, il favorito dell'allora presidente Leonid Kuchma, conduce alla cosiddetta Rivoluzione Arancione, dal nome del colore scelto dal principale movimento di opposizione, guidato da Viktor Yushchenko. Proteste di massa, sit-in, rivolte diffuse in tutta l'Ucraina e riportate dai media nazionali e internazionali spingono l'Unione Europea a mediare con il governo di Kuchma per indire nuove elezioni. La Corte Suprema ucraina invalida il risultato elettorale e fissa nuove elezioni per il 26 dicembre 2004. Questa volta ad uscirne vincitore fu proprio Yushchenko, divenuto icona della rivoluzione insieme alla collega Yulia Tymoshenko, da lui nominata primo ministro. ma la rivalità tra i due impedisce che le riforme avanzate per rafforzare la trasparenza politica e la libertà dei mezzi di informazione proseguano, al punto tale che la Timoshenko viene rimossa dalla carica di primo ministro da parte dell'alleato, per poi essere rinominata nel dicembre 2007. A causa dell'instabilità politica, le elezioni del 2010 sono vinte dall'ex nemico della Rivoluzione Arancione, Viktor Yanukovych. Da allora, la politica estera e commerciale è riorientata verso la Russia. Sono abbandonati i precedenti tentativi di Yushchenko di avvicinarsi a Bruxelles e alla NATO, i mezzi di informazione tornano sotto il pesante controllo dello Stato e molti oppositori politici vengono imprigionati. Prima tra tutti, Yulia Timoshenko, condannata a 10 anni di prigione con l'accusa di aver esercitato indebite pressioni sulla società statale di gas perché sottoscrivesse l'accordo con il fornitore Gazprom ad un prezzo fortemente sconveniente per l'Ucraina. Allora, questa la ricapitolazione degli ultimi anni di vita politica piuttosto intensa e turbolenta in Ucraina, paese strategico, lo avete già sentito, ma poi approfondiremo meglio gli aspetti prettamente geopolitici, l'importanza cruciale di questo paese per l'intera area e per l'Europa. Ma adesso vi porto immediatamente a Kiev, dove c'è Matteo Cazzolani, giornalista freelance, esperto di questioni ucraine. Matteo, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Matteo, che aria tira a Kiev? Siamo alla vigilia del voto e quali sono gli umori degli ucraini? Ma allora, innanzitutto direi un'aria fredda. Aria fredda non solo per il clima glaciale che si respira in questi giorni a Kiev, ma soprattutto per l'atmosfera politica che è presente nella capitale ucraina, ma in generale anche in tutto il paese. È un'atmosfera di enorme delusione nei confronti della politica. C'è una poca volontà di recarsi alle urne, anche se l'affluenza sarà alta. Questo dipenderà non tanto dalla voglia della gente di cambiare, ma da un clima di profonda mobilitazione dell'elettorato dovuta a metodi poco leciti, come ci è stato informato anche da fonti vicine alla Commissione europea e ad osservatori internazionali locali e appunto europei. Ecco, l'ombra di possibili frodi aleggia su questo appuntamento elettorale. Fra l'altro, la missione di osservazione elettorale si pronuncerà, l'OSCE in particolare, la sua missione di osservatore, lunedì nel pomeriggio, dopo che i risultati elettorali saranno ufficializzati nella mattinata, appunto, quindi anche il procedimento di spoglio poi sarà piuttosto veloce. Matteo, dicevi disaffezione, disfattismo in generale, è un po' anche il senso, il contenuto di un articolo dell'Economist che citavo inizio trasmissione. Gli ucraini non sono riusciti a appassionarsi a questo voto, come mai? Sì, esattamente, l'Economist ha centrato il punto. Il problema dell'Ucraina è che in tutti questi anni, specialmente dopo la Rivoluzione Arancione, non si è riusciti ad attuare un vero cambiamento nel paese. Oltre a questo c'è da dire che i politici dell'opposizione democratica, quindi di quella formazione politica che dovrebbe rappresentare un'alternativa a Yanukovych e a quello che è appunto diventato un regime quasi dittatoriale in Europa, se non una vera e propria dittatura, è formata da persone che appartengono alla vecchia politica. Non c'è stato un rinnovamento, non ci sono volti nuovi, sono sempre le solite persone che appartengono a questo gioco politico che da anni continua a confrontarsi in una lotta tra fazioni, per cui gli ucraini non hanno più un modello a cui ispirarsi, dove appunto riporre la loro fiducia per un vero e proprio cambiamento. Ecco, fra l'altro prima accennavo, come dire, all'ombra dei brogli, è stata battuta dall'ANSA pochi minuti fa, un'agenzia riporta un'intervista al direttore del centro di ricerche Razumkov, a Natali Rachok, che spiega come un voto costi di solito tra i 30 e i 50 euro, ma può anche essere comprato con doni più o meno costosi, biciclette, biglietti per il teatro, partite di calcio, visite mediche gratuite, eccetera. È chiaro che, insomma, se confermate sono accuse ovviamente molto molto gravi. Matteo Cazzolani, in diretta da Kiev, che sta seguendo le elezioni, la Timoshenko in carcere, la Timoshenko martire politicamente e sottoposta a questa odissea giudiziaria, non ha funzionato come collettore per l'opposizione? Purtroppo non è riuscito a mobilitare un elettorato maggiore rispetto a quello dell'opposizione democratica. La Timoshenko in carcere è riuscita a compattare gli elettori che non si riconoscono in Viktor Yanukovych e nel regime ucraino, ma non è riuscita ad ampliare lo spettro degli elettori che potenzialmente potrebbe votare il partito o i partiti dell'opposizione democratica. Ripeto, la Timoshenko appartiene purtroppo a una vecchia politica, ormai compromessa, oramai vecchia, oramai passata, che negli anni successivi alla Rivoluzione Arancione purtroppo non è riuscita a cambiare in maniera incisiva le cose nel paese per i vari motivi che la sintesi ha spiegato, quindi litigi interni nella coalizione, l'impossibilità di poter contare su una maggioranza numerica in Parlamento certa e definitiva. Questi fatti hanno portato purtroppo la Timoshenko ad essere individuata come in qualche modo responsabile o collusa con una crisi economica che in realtà è ben lungi da dipendere solamente dal suo governo durante appunto il 2007-2008 e 2009, gli ultimi anni in cui la crisi si è intensificata, e quindi insomma viene vista come una personalità, ripeto, legata alla vecchia politica. Non riesce a mobilitare la sua detenzione, mobilita tanto l'Europa, che critica giustamente l'Ucraina per la violazione dei diritti umani che in caso di Timoshenko rappresenta, ma non riesce a mobilitare l'elettorato interno ucraino che, come ripeto, è totalmente assuefatto e poco interessato alla competizione politica di domani. Ecco, poi a inizio trasmissione abbiamo fatto sentire la vociona di Viktor Klitschko, peso massimo, campione di boxe, che ha deciso di scendere sul ring, stavolta quello politico, al di là del fatto che insomma è un personaggio molto noto, capace probabilmente di attirare entusiasmi, che valenza politica può avere, Matteo? Purtroppo è indirettamente proporzionale a quella che è la sua aurea di gloria dal punto di vista sportivo. Klitschko si presenta all'elettorato con un programma vuoto, scarno di reali proposte, propone un generico avvicinamento agli standard europei per migliorare la cultura e la vita del paese, ma non ha proposte concrete che possono essere spese con azioni legislative in Parlamento. Tant'è che infatti la sua figura è una figura più che altro scelta come collettore di voti decisi, di protesta, che non riconoscendosi né in Yanukovych né nella Timoshenko cercano un nuovo personaggio su cui puntare, ma in realtà la sua appunto pochezza sul piano delle proposte concrete che il suo partito UDAR propone non potrà secondo me avere molto seguito, se non dal punto di vista elettorale, dal punto di vista soprattutto del supporto in Parlamento. Ecco, fra l'altro UDAR significa proprio pugno, giusto per essere chiari, come dire. Sì, è l'acronimo di Unione per la Democrazia, Movimento per la Democrazia e le Riforme in Ucraina, comunque questo acronimo dà anche il significato di UDAR, quindi ha giocato sul doppio nome. Gli appassionati di musica ricorderanno, chissà, la partecipazione dei Green Jolly con Raznom Nasbahato nel 2005 all'Eurovision. Beh, questa canzone divenne poi uno degli inni della Rivoluzione Arancione sfiorita, e poi in Ucraina è iniziato un inverno politico che domani, come dire, potrebbe avere un nuovo capitolo di questo inverno. La fotografia che ci sta regalando Matteo Cazzolani da Kiev va in questa direzione: disaffezione, disinnamoramento da parte degli ucraini rispetto alla politica, e il potere sempre più nelle mani del presidente in carica Viktor Yanukovych. L'importanza dell'Ucraina negli equilibri geopolitici dell'area, ma poi approfondiremo meglio questo argomento. Torniamo a Kiev con Matteo Cazzolani. L'altra domanda che volevo farti, Matteo, è quanto gli osservatori elettorali internazionali saranno capaci di garantire trasparenza e correttezza. Abbiamo sentito dichiarazioni fatte all'ANSA da parte di centri di osservazione su presunti brogli. Sì, le dichiarazioni vanno nella direzione giusta, nella misura in cui i brogli elettorali di per sé non potranno mai essere effettuati durante la giornata di domani. L'operazione di voto sostanzialmente, secondo tutti gli osservatori, avverrà in maniera regolare, non ci saranno infrazioni per quanto riguarda lo spoglio, la conta dei voti oppure anche il posizionamento delle seggi elettorali nelle varie sezioni. In realtà i veri brogli sono avvenuti prima e avverranno probabilmente dopo. Prima si intende la compravendita dei voti, che purtroppo, come hanno arrivato moltissime fonti, è avvenuta durante i mesi della campagna elettorale. Mi ripetiamo che per elezioni non bisogna intendere soltanto la giornata di domenica, ma si intende un periodo ben più lungo che va dai 2 mesi precedenti ai giorni immediatamente successivi a quello di domenica. Ebbene, in questi 2 mesi precedenti abbiamo avuto diversi casi da parte di tutti i partiti, ma in maggior parte da parte appunto del partito delle regioni, quindi il partito del presidente Yanukovych, di voti comprati in maniera molto diretta nei pressi appunto di assemblee di paesi, campagna, di quartieri periferici delle grandi città, in cui la gente, pur appunto di sbancare il lunario e ottenere un qualche soldino in più da mettere in tasca, è ben accetta insomma a vendere il proprio voto. E il dopo invece, per quanto riguarda i brogli, riguarda la trasmissione dei dati che dalle sezioni elettorali verrà effettuata alla Commissione Elettorale Centrale. Ebbene, come è denunciato da molti attivisti per i diritti umani e la democrazia in Ucraina che ho avuto modo di incontrare ieri, e nella Commissione Elettorale Centrale le persone deputate appunto alla conta dei voti e al controllo delle operazioni sono tutte nominate dall'amministrazione presidenziale e da elementi vicini a quella parlamentare, quindi al territorio delle regioni. Pertanto si ha in quel momento, al momento cioè della ricezione dei voti dalle sezioni elettorali alla Commissione elettorale centrale, il momento in cui si può tranquillamente operare dei brogli, delle falsificazioni dei risultati, senza appunto che nessuno abbia il diritto di controllare né di essere accreditato a visionare il lavoro di questa commissione. A questo punto risulta come dire, abbastanza facile fare una previsione su quelle che saranno i risultati di queste elezioni, ma te lo chiedo ugualmente sintetico, Matteo Cazzolani. Allora, tutti i sondaggi danno il Partito della Regione come partito vittorioso con una maggioranza relativa. L'opposizione democratica più Udare, il partito di Klitschko, se decideranno di fare una coalizione potrebbero avere la maggioranza in Parlamento. Tuttavia c'è da sottolineare un altro aspetto, l'aspetto legato cioè al sistema elettorale con cui si vota domani. Metà dei seggi del Parlamento verranno assegnati con un sistema maggioritario, quindi con candidature personali in collegi uninominali, e il resto invece verrà definito con un sistema proporzionale, quindi il partito che prende più voti prende più seggi e gli altri in percentuale. Ebbene, nei collegi uninominali maggioritari troviamo un altissimo numero di candidati cosiddetti indipendenti, che in realtà rappresentano piccoli oligarchi locali che detengono il controllo dei voti e delle infrastrutture e del business appunto delle piccole aree rurali e periferiche cittadine, che sono collegati al partito delle regioni, sono diretta emanazione dei grandi politici del partito delle regioni, pronti a candidarsi come indipendenti, a essere votati come indipendenti perché possono appunto godere di questo enorme sostegno grazie anche all'ondata di antipolitica, chiamiamola così, e appunto una volta eletti finiranno per costituire una maggioranza con il partito delle regioni. Quindi anche se i risultati non dovessero essere falsati dal punto di vista della conta dei voti e dovesse vincere la posizione democratica, avremmo un Parlamento che comunque sia potrebbe essere formato a maggioranza da supporter del presidente Yanukovych, quindi nulla cambia. Grazie allora a Matteo Cazzolani per la tua corrispondenza, la tua fotografia da Kiev. Buona serata, buon lavoro. Buona serata a voi. Цілий день мене пиляла, і я спокій втрачав. Я на тебе кричав, я горлянку тривав, як собака гарчав. Il crossover ucraino firmato dai Tartak per voltare pagina e aprire quella di geopolitica più stretta. Antonella Scotta, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Antonella, ti chiedo intanto una prima, come dire, telegrafica risposta sulla domanda chiave. Perché è così importante l'Ucraina, l'importanza geopolitica di questo paese? Beh, forse possiamo farci un'idea di perché sia importante per l'Europa, pensando al nome. Il nome Ucraina, che viene da Krai, che vuol dire margine, orlo, un paese al confine, proprio da ponte se ce lo immaginiamo nella cartina geografica tra Russia e Europa, e che quindi può in grado di cambiare, stando così a metà, può cambiare i grandi equilibri a seconda della parte che sceglie, dell'orbita in cui vuole ruotare. Anche perché è un paese che in una posizione simile fa fatica a stare da solo, oltretutto l'economia ucraina è un'economia che dipende molto dall'export, non avendo diversificato ha bisogno di legarsi ad altri mercati. Dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica è diventata un po' un campo di battaglia tra, da una parte Stati Uniti e Europa e dall'altra la Russia, e se nel periodo della rivoluzione arancione c'era stata come un momento di sconfitta di Mosca e un avvicinamento all'Occidente, adesso i giochi sono un po' più riaperti. Il presidente Yanukovych era considerato all'inizio, quando è stato eletto, filo russo, in realtà non è davvero corso ad abbracciare gli interessi di Mosca, a secondare Putin, per cui l'Ucraina naturalmente è cruciale con la sua massa, cruciale nel disegno di Putin di ricreare uno spazio comune tra le repubbliche che facevano parte dell'Unione Sovietica. Sì. Senza l'Ucraina questo disegno non sarà mai completo. Torniamo lì in Ucraina, stai con noi Antonella, perché torniamo lì e torniamo, facciamo un passo indietro, torniamo a parlare della campagna elettorale, lo facciamo con Savik Schuster, giornalista, volto noto televisivo ucraino. Savik, buonasera, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buonasera Giampaolo, buonasera Antonella. Savik, che ruolo ha giocato la televisione in questa campagna elettorale? Io credo cruciale, un ruolo molto importante perché cioè, è il mezzo di comunicazione cioè, più diffuso, più sentito, più visto, quindi più influente. La cosa che io vorrei rispondere subito a Antonella, che il presidente Yanukovych non ha mai assecondato Mosca, non è vero, perché l'accordo sulla permanenza della flotta russa sul Mar Nero è stata la prima mossa del presidente Yanukovych. Quindi la flotta russa rimane qui all'eterno, praticamente. Quindi non è così bianconera la situazione. Yanukovych nemico di Mosca o Putin nemico di Yanukovych. Ci hanno dei problemi sul contratto di gas, sui prezzi di gas. Ecco, sì, mi riferivo infatti soprattutto al gas. E poi al gas arriviamo, perché mi sembra poi il nodo cruciale, che è quello che poi, come dire, almeno formalmente ha fatto finire in carcere la Timoshenko. Savic, quali sono stati i temi toccati nella campagna elettorale? Ci sono stati contenuti oppure è stata una campagna così, di sangue, di colore? Ma io direi più di sangue, non voglio dire di sangue, però non è stata una campagna propositiva. No, nessuno degli ucraini ha capito che cosa propongono le forze politiche per il futuro. Hanno parlato molto del passato. Chi ha rovinato il paese? Perché il paese effettivamente è rovinato dal punto di vista economico. E non solo, perché è molto diviso, molto spaccato, c'è l'Ovest, c'è l'Est, c'è il centro, e quindi non abbiamo sentito nei programmi quello che veramente vogliono fare. Abbiamo sentito nei programmi elettorali quelli che non vogliono vedere vicini al potere. Quindi non è stata una campagna veramente creativa, non è stata una campagna elettorale che ha coinvolto l'elettore. No, l'elettore è di fronte a una scelta del meno peggio. Fra l'altro citavo inizio trasmissione, e ci confermava Cazzulani sempre da Kiev, la parola d'ordine è stata disaffezione, disamoramento nei confronti della politica, un allontanamento. Confermi questa percezione, Savic? Ma sì e no, perché per esempio io ho fatto ieri l'ultima diretta preelettorale, perché oggi è il giorno di silenzio, e l'opposizione ha detto in una voce sola un concetto molto chiaro, che questa è una lezione storica. O l'Ucraina con questo presidente, con questa maggioranza, va in una direzione assolutamente chiara verso l'integrazione euroasiatica con la Russia, con Kazakhstan, con Bielorussia, che effettivamente si instaura un potere, non voglio dire totalitario, ma certamente autocratico, dove i principi democratici non sono più né sentiti né seguiti, o veramente si fa capire al potere che la gente pensa diversamente. In questo senso è chiaro che è più un referendum veramente, è un referendum sul consenso o non consenso riguardo al presidente Yanukovych. Io penso che questo sia il senso di questa elezione. È il sound duro degli Holy Blood, che è una delle band più famose folk metal di Kiev. Ci accompagna nell'ultima parte della trasmissione, tutta dedicata all'appuntamento elettorale di domani. Siamo con Savic Schuster, giornalista televisivo volto noto, con noi da Kiev. Antonella Scott, esperta di quella zona, di quell'area, del Sole 24 Ore. Savic, è fuori di discussione la vittoria del partito del presidente domani, o ci possono essere colpi di scena secondo te? No, io credo che sia fuori discussione la vittoria. È molto importante vedere la percentuale. Se il partito del potere arriva a 30%, questa è una vittoria per loro chiara e evidente, perché l'opposizione non arriverà mai a queste cifre. Se arrivano a 22-23%, si fa un grande punto interrogativo. Io penso questo sia molto importante, anche se, come è stato detto, che siamo 50-50, no? 50 maggioritario e 50 proporzionale. Sì. Però io credo che il partito del potere domani potrebbe avere una sorpresa. Ma io devo dire una cosa, Giampaolo, veramente, no? Stiamo parlando di una di un paese post-sovietico, anche se 20 anni sono passati, però 20 anni non sono tanti, quindi staliniana la cosa, non importa come si vota, importa chi conta. E questo purtroppo è la realtà, sì. E questo dobbiamo capirlo. Secondo te, Savic, sento anche una certa amarezza, diciamo, nelle tue parole. Quanti anni ci vogliono perché una giovane democrazia sviluppi gli anticorpi per gestire situazioni come queste? È una bella domanda. Io la delusione, come ti hai detto, sai, io vorrei molto vedere Ucraina nella famiglia europea, veramente. Perché io credo che in fondo si merita, perché è un bel paese, perché è una gente molto, c'è un cuore largo, veramente un paese buono, veramente la gente è molto brava e vorrebbe fare le cose, non le danno la possibilità, perché si ruba troppo, si ruba tutto. Io non so quando smetteranno, quando veramente capiranno che non c'è rimasto niente da rubare. È peccato, e quindi la mia delusione è questa. Cosa bisogna fare? Io penso che l'Europa, se potesse essere un pochino più vicina, se potesse far capire alla gente che non è che solo pone le condizioni, ma in fondo lo vuole questo paese nella famiglia europea, io credo, sinceramente lo vuole, no? Sarebbe una cosa giusta. Sì. Savic, allora con questo dolente appello ti saluto, ti auguro una buona serata, buon lavoro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Minuti 30 secondi, in questo esatto istante siamo quasi in chiusura. Savic ha, come dire, parlato col cuore, ha parlato del cuore degli ucraini, però dietro al cuore, alle emozioni, a questo voto e all'emotività, c'è soprattutto l'economia. Antonella Scotta, la questione del gas mi pare cruciale. Aiutaci a capire meglio quanto importante è il gas che arriva dalla Russia e poi finisce in Europa. Dunque, è cruciale per l'Ucraina, perché ancora l'Ucraina dipende per più della metà del suo fabbisogno dal gas russo, e quindi il legame con Mosca su questo è cruciale, perché da una parte potrebbe essere la chiave della soluzione per i problemi dell'economia ucraina. È un'economia che in questo momento attraversa una grossa difficoltà, perché appunto, come dicevamo, è un'economia che dipende dall'export, quindi in particolare il calo della domanda europea di acciaio mette in una posizione difficile i conti pubblici del paese. Nello stesso tempo, e questo riporta anche alla questione della condanna di Yulia Tymoshenko, sì. L'Ucraina è legata alla Russia da un accordo che venne stipulato appunto dalla Tymoshenko insieme a Putin nel gennaio 2009, forse ricorderete, era il momento della grande crisi del gas, che appunto ha portato anche l'Europa a rimanere per qualche giorno senza il gas dalla Russia. E in quegli accordi la Tymoshenko accettò prezzi per le forniture di gas che ora Yanukovych ritiene inaccettabili. In questo senso, dicevo, non corre a secondare. Sì. La Russia, perché da tempo ormai, con mille negoziati, Yanukovych chiede a Mosca prezzi più simili. I prezzi che pagano ora, per farci un'idea, sono superiori, sono i prezzi che seguono l'andamento del petrolio, quindi sono dello superiore anche ai $400 per 1000 metri cubi. Gli ucraini vorrebbero scendere a circa 250, intorno ai $250 per 1000 metri cubi. Quindi quasi della metà. Ecco, vorrebbero anche ridurre le quantità a cui sono stati legati con questo accordo, per cui appunto la Tymoshenko, con l'accusa di aver abusato del proprio potere, è finita in carcere. I russi, che ora sanno che l'Ucraina comincia a contare un po' meno come paese di transito, perché hanno cominciato ad aprire il gasdotto Nord Stream che dalla Germania porta gas in Europa e quindi riduce la quantità di gas che transita attraverso l'Ucraina. L'Ucraina quindi ha un po' meno forza negoziale. Nello stesso tempo ha un bisogno estremo appunto di abbassare questi prezzi, perché la compagnia energetica Naftogaz acquista dai russi, da Gazprom, il gas russo a prezzi elevati e poi lo rivende nel paese a prezzi inferiori, perché il governo non intende aumentare i prezzi anche per questioni elettorali, certo. Mantenere popolarità, non intende aumentare i prezzi. Quindi il Naftogaz è praticamente in bancarotta. Se Yanukovych cedesse a Mosca, cioè se accettasse di cedere una parte del sistema di gasdotti e di Naftogaz ai russi, automaticamente otterrebbe gli sconti sul gas che non è riuscito a ottenere negoziando, e risolverebbe i suoi problemi di conti. Ma appunto questa è una decisione che costerebbe troppo in termini di popolarità, perché vendere la propria compagnia energetica a Mosca sarebbe come cedere una sovranità importante. Chiaramente, ancora una volta nelle questioni di geopolitica e anche politiche interne, l'economia, in questo caso il gas, quei rubinetti giocano un ruolo fondamentale. L'Ucraina, lo diceva molto chiaramente Antonella Scotta a inizio del collegamento, è proprio un paese cerniera, è lì, un'erma bifronte tra Unione Europea e Russia. L'ultima domanda che ti faccio, telegrafica, Antonella, è se vedi un'assenza dell'Europa da questo punto di vista, cioè questo paese tirato da una parte e dall'altra. Mi sembra che forse la Russia, come dire, abbia più argomenti da mettere sul piatto, abbia più forza, sia più muscolosa, no? in questa più muscolare in questa partita. Forse sì, come diceva anche Savic, l'Europa forse può essere accusata di lasciare sola l'Ucraina, tenendo al di là così delle manifestazioni di appoggio alla Timoshenko, peraltro vicenda che per cui l'Unione Europea sta bloccando un accordo di partnership nei confronti di Kiev. Bisogna però ricordare che se l'Ucraina, lasciata appunto sola dall'Europa, sarà costretta ad affidarsi di più a Mosca, sul fronte del gas proprio questo ricadrà anche su di noi, che desideriamo ridurre la nostra dipendenza energetica. Certo, certo. Grazie Antonella Scotta, siamo veramente in chiusura, mancano 5 secondi, ho il tempo di ringraziare te, gli ascoltatori, Nadia Zammiti redazione, Paolo Corleoni a dare musica e ritmo. Una buona serata da Gianpaolo Musumeci.